Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento oggi con l'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e abbiamo al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto ai radioascoltatori. Allora, intanto auguri per il tuo raffreddore. Grazie, ecco. È il periodo. Vabbè, cosa vuoi. Parliamo di vacanze ancora con te, perché insomma siamo agli sgoccioli di settembre, però c'è ancora gente che in questo periodo va in vacanza, e raccontiamo qualcosa che è accaduto a una coppia di sposi. Sì, noi come sapete Francesco, noi seguiamo molto le questioni appunto delle vacanze rovinate, e effettivamente anche quest'estate abbiamo avuto tante segnalazioni e stiamo seguendo tante persone. In particolare volevamo raccontare la storia di questa coppia di ultra 75 anni, una marito e moglie, che hanno deciso di andare in crociera con la Costa Crociere per festeggiare, tra l'altro, le nozze d'oro, quindi insomma un appuntamento molto importante. Per quello parlavo di sposi, 50 anni di matrimonio. 50 anni di matrimonio, quindi una bella crociera, ci stava sicuramente tutta. Tra l'altro due persone che devo dire che in crociera c'erano già andate, e sempre con la Costa, e si erano sempre trovate bene, è giusto dirlo. In questo caso la vacanza è andata molto peggio, perché i due coniugi della provincia di Venezia si sono imbarcati a Savona. Però purtroppo gli organizzatori si sono dimenticati di caricare in nave una valigia, una delle valigie che avevano, la valigia principale, quella dove c'erano parecchi ricambi, dove c'era il caricabatterie e dove soprattutto c'erano dei medicinali abbastanza importanti, insomma, per i due anziani. E quindi in definitiva queste persone si sono ritrovate in nave, hanno fatto la loro vacanza in un disagio totale, proprio perché si sono ritrovati spesso a cena con gli stessi vestiti, hanno dovuto farsi prestare un paio di scarpe da degli amici, hanno dovuto anche acquistare degli indumenti all'interno della nave, dove sappiamo che tra l'altro i costi delle cose, degli oggetti, insomma, sono molto elevati, per cui insomma hanno dovuto anche affrontare delle spese extra notevoli. Mm-hmm. Tra l'altro dopo due giorni il telefonino si è scaricato, non avendo il caricabatterie, e questo ha impedito ai due coniugi di contattare anche i figli. Quello che naturalmente emerge come più grave è l'assenza dei medicinali, delle medicine, e questo chiaramente ha comportato un disagio più grande, anche se fortunatamente si è riuscito un po' a ovviare con l'intervento del medico di bordo, insomma, che ha cercato di fornire dei medicinali alternativi. È stata una vacanza, diciamo, abbastanza imbarazzante, come ci hanno spiegato i due soci, proprio perché loro stessi a un certo punto non volevano neanche più andare a cena o a pranzo o a colazione, perché erano sempre vestiti uguali e quindi si sentivano molto, molto a disagio. Come sempre noi siamo intervenuti scrivendo chiaramente in questo caso a Costa Crociere, perché avevamo bisogno, insomma, di capire che tipo di risarcimento, che tipo di indennizzo potesse prevedere la compagnia nei confronti dei due coniugi, che tra l'altro, come ti ho detto all'inizio, sono anche dei clienti fissi. E da là, insomma, è iniziato un po' l'intervento del nostro ufficio legale. Costa Crociere ha ammesso chiaramente le proprie responsabilità. Ha anche detto che loro avevano assicurato che i bagagli dopo due giorni in aereo sarebbero potuti arrivare poi a destinazione, però avrebbero dovuto togliere dalla valigia la parte liquida, tra la quale appunto c'erano anche i medicinali, per cui i due coniugi hanno rifiutato. Detto questo, appunto, a vacanza finita è stato offerto a loro un bonus da spendere in altre crociere di 400 euro. Due coniugi non hanno accettato, per cui noi adesso stiamo andando avanti e non è impossibile anche che si finisca in un'aula di un tribunale. Vabbè, vedremo allora che cosa succederà nel proseguio, quando ce lo racconterete, perché poi avremo modo magari di ritornarci. Sì, Francesco, scusa, volevo aggiungere una cosa, perché al di là quindi del cercare di ricostruire tutti i disagi vissuti, quindi i problemi con i medicinali e tutto, Noi, come sai, da tempo contestiamo la vacanza rovinata, il risarcimento da vacanza rovinata, e direi che in questa occasione la vacanza, anche considerando che si trattava appunto delle nozze d'oro, insomma, la vacanza è stata veramente rovinata. Per cui noi crediamo, insomma, che la compagnia possa prevedere un risarcimento decisamente superiore rispetto a quanto proposto per ora, che tra l'altro non è stato proposto un risarcimento ma un buono sconto, quindi insomma anche quello non è molto piaciuto ai nostri soci. Certo, allora ricordo che il sito dell'Adico è www.associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate tante informazioni utili e poi anche i numeri di telefono per contattare l'Adico. Grazie a Gianluca Codognato, ci ritroviamo martedì prossimo. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.